Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, devo ammettere che ci si sta capendo, perlomeno chi vi parla, sempre meno sulla vicenda greca, ed è subito una prima missione, nel senso che le dichiarazioni che sono arrivate oggi, alla luce anche della lettera presentata dal governo di Atene, in cui accettava, lettera arrivata nella notte, accettava la proposta sull'IVA, adesso vi arriveremo, sul tema delle pensioni e altri temi, non si capisce a questo punto se il referendum si terrà o no, nel senso che Angela Merkel è tornata a ricordare che nessun accordo potrà essere firmato prima del referendum, e ha ribadito che gli aiuti sono sospesi dopo che Atene ha unilateralmente abbandonato il negoziato. Ora bisogna aspettare l'esito del referendum. La Grecia ha diritto a fare un referendum, noi a rispondere. Parlare prima del referendum, ha aggiunto il ministro delle finanze tedesco Schäuble, non ha senso, mentre dalla Francia è arrivata una posizione leggermente diversa, nel senso che la Francia, ho detto il presidente della Repubblica François Hollande, ha detto insomma potremmo giungere a un accordo se possibile anche prima del referendum. A questo punto, al di là del valore politico di questo referendum, in cui molti giustamente vedono anche un sì o un no al mantenere e accogliere le richieste che arrivano dall'Europa, oppure no, rifiutare le richieste d'Europa e in qualche modo dire no all'Europa, ma al di là del valore politico, siccome poi il referendum devono votare su qualcosa, non si capisce da un punto di vista dei contenuti, e ripeto al di fuori del valore politico, quale sia il sì e il no, se quegli accordi e quelle proposte non valgono più e bisognerà rinegoziare delle altre. B, se come Hollande ipotizza si potrebbe avere arrivare a un accordo anche prima del referendum, cosa vanno a votare a quel punto i greci? Il sì o no al nuovo accordo? Insomma, la situazione è veramente complicata, e come si fa ad arrivare a un nuovo accordo se la Germania dice che non si siede al tavolo del nuovo accordo finché non c'è il referendum? Voglio dire, un caos senza fine da questo punto di vista. Per quello, e ne parleremo. Oggi è intervenuto su questo, sia prima che dopo l'incontro con Angela Merkel, anche il Premier Matteo Renzi. Alcune dichiarazioni le avete già ascoltate nel corso dei nostri GR24, le ascolteremo anche tra brevissimo. Per quello che riguarda la borsa, il rialzo è confermato a Milano, ma non solo, nel senso che Francoforte guadagna il 2,20%, Parigi il 2%, Milano è in rialzo in questo momento del 2,26%, quindi un rialzo più significativo rispetto a quel leggero rimbalzo tentato ieri e poi fallito. UbiBanca più 4,80%, CNH più 4,60%, Mediaset più 4,30%, Autogrill più 3,60% come Unicredit, Exor più 3,40 come A2A, il 3,20 lo guadagna Intesa San Paolo, il 3,10 Finmeccanica, Monte dei Paschi in rialzo del 3% come Telecom Italia, Pop Emilia Romagna più 2,88, Generali più 2,80 come Buzzi Unicem, Mediobanca più 2,70, Pop Milano più 2,5. Di negativo oggi c'è solo Saipem tra i titoli a maggiore capitalizzazione, meno 1,70%, e Tenaris meno 0,60%. Stiamo trasmettendo anche oggi dall'Expo a Milano, dal padiglione del Cibus a Italia. Parleremo di altri temi che riguardano sempre, tra l'altro oggi il 1° luglio, per 2 milioni e 400 mila lavoratori, o meglio per una parte di essi, c'è una novità contenuta nella legge di stabilità, riguarda i cosiddetti buoni pasto, che possono sembrare un argomento minore, ma in realtà valgono più in media 1.500 euro all'anno per ogni lavoratore che li ha in busta paga, che ne gode, quindi sono quasi uno stipendio in più. C'è una novità che scatta con oggi, è decisa dalla legge di stabilità, che alza, dopo 18 anni che era fermo, la parte di esenzione fiscale, aumenta di fatto in maniera anche, se vogliamo, considerevole, sono 400 euro in più all'anno il valore dei buoni pasto elettronici. Ma al di là di questo, che comunque è un aspetto non secondario, ci occuperemo chiaramente di Grecia e anche degli incontri di Edison, della Fondazione Edison, in occasione dell'Expo 2015, si è tenuta infatti la lezione magistralis dell'economista J.K. Kraft, che ha spiegato quali siano gli elementi per trasformare le piccole e anche medie imprese in aziende con elevati tassi di crescita, le cosiddette gazzelle. Ascolteremo alcuni dei passaggi di questa lezione magistralis. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Andiamo rapidamente con le altre notizie in breve. Per quello che riguarda contenuti della lettera, beh, ascoltiamo anche alcuni dei passaggi del Presidente del Consiglio. La lettera: Atene accetta la proposta sull'IVA con la richiesta di mantenere uno sconto del 30% per le isole sulle nuove aliquote. Sul tema delle pensioni, Tsipras afferma che sarà pienamente implementata la riforma del 2010 con l'età pensionabile a 66 anni. Ancora chiede di far partire la riforma delle pensioni a ottobre. Il governo chiede anche una cancellazione più graduale degli aiuti che portano le pensioni minime a 700 euro. Sempre in autunno accetta di arrivare a una nuova legislazione sul mercato del lavoro. Sul fronte del fisco indica nella lettera Tsipras che verranno progressivamente eliminati trattamenti fiscali agevolati a favore dell'agricoltura entro il 2017, taglio delle spese militari di 200 milioni nel 2016 e 400 milioni nel 2017, che sono una cifra importante per quello che è il bilancio della difesa greco. Poi aggiunge Tsipras, verranno implementate le raccomandazioni dell'OCSE sulla concorrenza, liberalizzato il settore delle professioni e quant'altro. Tsipras in un messaggio TV ha detto la Grecia resta al tavolo negoziale, ma ha invitato a votare no al referendum. Ha detto votare no al referendum non significherebbe dire di no all'Europa, ma tornare a un'Europa dei valori. Ora però, con tutto il bene che possiamo volere a Tsipras, non si capisce nulla. Cioè dice che la Grecia resta al tavolo negoziale, ma invita a votare no, quindi il referendum comunque si tiene da un valore politico. Ecco perché molti osservatori dicono attenzione, Tsipras si gioca anche la sua leadership con questo referendum, perché dovessero vincere i sì, sarebbe a questo punto, per volontà dello stesso Tsipras, un messaggio e un'indicazione forte di carattere politico contro il governo Tsipras. Vogliamo un accordo con i partner europei ma che sia sostenibile. E poi ai pensionati, sempre nel messaggio televisivo, ha detto noi vogliamo difendere le vostre pensioni, vogliamo che restino pensioni, non elemosine. La Commissione sta valutando le proposte di Atene, l'inizio del loro gruppo slitta dopo le 17.30. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis ha detto il referendum tecnicamente non è valido perché si chiede di votare su un programma che non esiste più e su una proposta vecchia, quindi è più che altro un segnale politico. In effetti, se non cambia, diciamo, il contenuto di questo referendum, anche a noi sembra che ci vi sia solo un messaggio politico, cioè cosa voti sì o no a una proposta che non è più nel tavolo negoziale. Comunque, su questo vi è stato anche l'accordo tra Atene l'incontro tra la Germania e l'Italia, nel senso Angela Merkel con Matteo Renzi. Abbiamo un po' di problemi di ritorno in cuffia, adesso li sto sistemando. Per quello che riguarda l'incontro, Renzi pochi minuti fa dopo l'incontro in conferenza stampa ha dichiarato attenzione sulla Grecia, il referendum è un errore, è stato un errore, ma rispettiamo le decisioni dei greci. Siamo in grado di farvi ascoltare questo passaggio. Io credo che il referendum, la scelta di fare il referendum in Grecia, a mio avviso sia un errore, ma rispetto naturalmente come tutti noi la volontà del popolo greco. A mio giudizio quello che è fondamentale fare è cercare dal punto di vista di tutti di far prevalere le ragioni del buon senso. Per questo nei mesi scorsi e nelle settimane scorse e anche nei giorni scorsi abbiamo cercato di trovare un punto di intesa. Vedremo quello che accadrà in futuro, ma quello che è importante è che abbiamo detto noi per primi è che non è pensabile che noi abbiamo smesso di pagare le baby pensioni in Italia per poi pagarle in Grecia. Questo non è accettabile, come ovvio che sia. Non è possibile fare la guerra all'evasione fiscale in tutto il mondo e poi non far pagare le tasse agli armatori greci. E poi le dichiarazioni che Renzi aveva reso in mattinata prima di incontrare Angela Merkel, dicendo: attenzione, bisogna avere il coraggio di ammettere che la sola visione economica per l'Europa in questi anni non ha funzionato, ha funzionato forse per la Germania ma non per l'Europa, e ha fatto anche fallire gli obiettivi di Lisbona per come siamo messi. E in questo modo, ha aggiunto Renzi alla Humboldt University di Berlino, rischiamo di diventare fanalino di coda e non locomotiva, indicando una terza via, il termine un po' abusato dai tempi di Blair, una terza via tra austerità e irresponsabilità, aggiungo io, tra Germania e Grecia. C'è una terza via tra la irresponsabilità e l'austerity. Questa terza via non sta sulla scheda del referendum greco. Che perché il referendum greco è dracma contro euro. Questa terza via però deve stare nell'agenda politica europea, a partire dal prossimo Consiglio europeo, ma è fondamentale che stia nelle discussioni delle università. L'Europa, così come è stata pensata a livello economico in questi anni, ha fallito. Adesso è il momento di scrivere una pagina che abbia il coraggio della crescita, e non soltanto il totem dell'austerity. Allora, dati dall'Italia, oggi il deficit nei primi tre mesi dell'anno è risultato il migliore dal 2007, rapporto deficit-PIL, in calo dello 0,4 punti percentuali. La spesa per interessi, questo grazie anche alle manovre di Mario Draghi e ai rendimenti bassissimi degli interessi, quindi quello che dobbiamo pagare per farci comprare il nostro debito come interessi, sono scese del 14%, 2 miliardi e 400 milioni di euro in meno su base annua. È questo l'effetto dello spread più basso rispetto a un anno fa, 2 miliardi e 400 milioni di interessi minori che paghiamo sul debito rispetto a un anno fa. E l'Istat oggi diffonde anche il dato sul reddito delle famiglie, che è leggermente tornato a crescere dello 0,6%. Domani, tra l'altro, iniziano i saldi, un negozio su due avrà sconti del 40%, inizia per prima la Campania e poi Basilicata, Puglia e Marche il 3 luglio, dal 4 luglio le altre regioni d'Italia. Per quello che riguarda la situazione economica italiana, tra l'altro, anche su questo è intervenuto il premier Matteo Renzi, dicendo che insomma resta ancora molto da fare, ma la stessa Angela Merkel ha riconosciuto dopo l'incontro che ha parlato di impressionante programma di riforme in Italia. Sentiamo il Presidente del Consiglio. Un anno fa l'Italia aveva una crescita negativa, disoccupazione record storico, riforme ferme al palo. Oggi io non sono soddisfatto, però le riforme sono partite, la data chiave sarà quella del giugno 2016 con il referendum costituzionale, noi puntiamo a farlo nel giugno 2016. Jobs Act, oggi posso dirlo scherzando che il lavoro in Italia è più flessibile che in Germania e un anno fa non ci avrebbe creduto nessuno. Stiamo lavorando molto sulle questioni della pubblica amministrazione e delle tasse e del sistema organizzativo. C'è ancora molto molto molto da fare, ma l'Italia è tornata in pista e ha voglia di correre più veloce di tutti. Cerca di superare persino la Germania, talvolta li copiamo, vi copiamo. Ho detto a Angela che il sistema scuola-lavoro che avete in Germania è per noi un modello e lo stiamo mettendo nella nuova legge sulla scuola. Quello che possiamo cercare di fare è di correre il più velocemente possibile. Allora, chiaramente i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi ogni giorno anche in anche su Radio Dimensione Suono oggi sono dedicati ancora una volta alla Grecia, ma è difficile uscire da questo tracciato con quello che sta capitando. La firma oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Se non altro, la crisi greca a qualcosa è servita, a far capire a tutti che l'euro non è una porta agevole e uscire presenta delle incognite e soprattutto dei costi a carico delle famiglie, delle imprese e di tutti i cittadini che sono ben superiori al punto interrogativo che ci aspetterebbe tornando alle vecchie valute. Questa è un po' la morale della crisi greca: scontri contro scontri, polemiche, accuse reciproche e soprattutto toni che non fanno nulla a che vedere con quello che dovrebbe essere un po' lo spirito dell'Europa: solidarietà e crescere insieme. Certo, ce lo siamo dimenticati da parecchio che cosa significa crescere insieme, ma ripeto, la morale della storia greca qual è? Che isolati non si va da nessuna parte. Questo è un momento delicato, è un momento da cui probabilmente si uscirà soltanto prendendo le lezioni di questa crisi greca e facendone tesoro per ricostituire un'Europa più giusta e su basi più solidaristiche, tenendo presente che se nei momenti di bassa marea sono soprattutto le barche più forti che tengono meglio l'urto e nei momenti di alta marea che bisogna crescere insieme. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molti messaggi sia al 349-238-6666 che poi sul sito di Radio 24, nel programma Focus Economia, sulla Grecia. Guardate, lo dico con la massima calma, di tutto c'è bisogno tranne che di adesso fare le tifoserie, viva Tsipras, viva la dracma, no, basta con sti greci, hanno rotto. Il problema non è questo, l'abbiamo spiegato, ho cercato di spiegare molte volte, il problema è che il fallimento è di entrambi, sicuramente dei greci perché non sono riusciti a arrivare, ma anche di un'Europa che per un paese che vale meno del 2% del PIL, per un debito che complessivamente, non quello, sono 320 miliardi di euro, è da 5 anni che cerca di trovare una soluzione sulla Grecia. E nel frattempo il debito greco, che prima era delle banche tedesche, francesi e piccola parte anche italiane, lo abbiamo rigirato sui cittadini tedeschi, francesi e italiani, e nel frattempo senza che la Grecia si sia risollevata da queste misure di austerity. Allora, immaginare che la Grecia abbia una possibilità di riprendersi come ha avuto l'Irlanda, che era un paese che aveva una crisi pesantissima, ma aveva anche una struttura dei servizi, un'economia molto dinamica. Insomma, la Grecia non esporta quasi nulla, col massimo rispetto, un po' di yogurt, c'è un'importante industria degli armatori, più che della produzione, non della cantieristica, ma della produzione, né della produzione di navi, ma degli armatori, sì, ma vive di turismo, e ha un'importazione, produce nei beni di prima necessità, li produce in casa, ma ha una grossissima importazione di tutto. Ora, immaginare che la Grecia possa partire con i tassi di crescita tali da ripartire come ha fatto altri paesi è fuori discussione. La Spagna ha chiesto aiuto all'Europa, ma parliamo della Spagna, parliamo di una nazione che ha un sistema bancario al di là delle casse dei risparmi regionali fatto da due colossi come il Banco di Bilbao e il Santander. Cioè, stiamo parlando di altri paesi dove la Spagna esporta sicuramente meno dell'Italia, ma ha una sua struttura industriale anche delocalizzata, anche come delocalizzazione da parte di altri grandi produttori importanti. Cioè, la Grecia, prendiamo atto che è sempre la Grecia, e valeva anche nel 2007, nel 2006, quando le banche tedesche, francesi o la Siemens o altri produttori sommergibili vendevano cose alla Grecia e si facevano e prestavano soldi alla Grecia immaginando che li avrebbero ripagati. Per cui, insomma, il fallimento è di tutti e due, è sicuramente dei greci, ma è anche di questa Europa, perché non è possibile incartarsi in questo modo per 5 anni per un problema minore. Ecco il perché del fallimento, ecco perché non ha senso tifare. È come tifare per avere due squadre in campo che giocano ambedue malissimo e che non riescono a giustificare il prezzo del biglietto della partita. Se vogliamo, è inutile tifare o per l'uno o per l'altra, vanno fischiate se vogliamo tutte e due, ecco. Va bene, dicevo però di una notizia apparentemente minore, ma riguarda una platea di 2.300.000 lavoratori. In realtà la notizia di oggi riguarda una quota parte di questi, intorno ai 400.000. Il tema ha a che fare anche con i consumi, per chi il lavoro l'ha mantenuto, e mi riferisco a un tema che può apparire minore come quello dei buoni pasto. Sì, parliamo dei buoni pasto, cioè di qualcosa che riguarda 2 milioni e 300 mila lavoratori che vedono integrata la loro busta paga con il buono pasto, che può essere o quello cartaceo tradizionale o quello elettronico. Ne parliamo oggi perché, anche se poi uno dice ma come mai vi occupate di consumi attraverso i buoni pasto, perché da oggi, dopo 17 anni, erano fermi dal 98 i valori dei buoni pasto che le aziende danno, fermi a 5,29 euro, e voi capite che un conto era parlare delle 10.000 lire del 98, un conto parlare dei 5,29 euro di adesso, con l'inflazione che sarà pure stata bassa negli ultimi anni, ma dal 98 adesso ha eroso buona parte di questo potere d'acquisto. Dico, ne parliamo oggi perché la legge di stabilità ha innalzato la soglia di detassazione per i buoni pasto, e in virtù di questo, solo quelli elettronici però, in virtù di questo la soglia passa da 5,29 a 7 euro. Il che significa che chi gode già di un buono pasto elettronico avrà un euro e 70 in più al giorno, sono 400 euro per questi lavoratori in più all'anno. Purtroppo riguarda solo la parte dei buoni pasto elettronici, che se non ricordo male sono intorno al 15-20% del totale dei 2 milioni e 300 mila. Quindi ragionevolmente arriveremo intorno ai 400.000 lavoratori coinvolti, non di più. Ne parliamo da un lato con chi amministra, nel senso che è l'amministratore delegato del gruppo Edenred, Andrea Keller, buonasera. Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Voi siete gli inventori del Ticket Restaurant, siete il gruppo, lei è l'amministratore delegato della parte italiana, il gruppo leader mondiale nella gestione dei fondi finalizzati alle imprese, quotato alla Borsa di Parigi, è presente in 42 paesi con oltre 6.000 collaboratori e emette buoni pasto praticamente per 17 miliardi e mezzo di euro l'anno, questo dato l'anno scorso, e di cui il 60% nei paesi emergenti. E poi ringrazio anche per averci raggiunto in collegamento il direttore della divisione buoni pasto del gruppo Pellegrini, Davide Scaramuzza. Buonasera anche a lei, dottor Scaramuzza. Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori e grazie per l'invito. Pellegrini, gruppo insomma, che molti tifosi dell'Inter conoscono per altri motivi, ma è il gruppo attivo principalmente nel campo della ristorazione, 450 milioni di euro di fatturato, 5.600 dipendenti, e ha varato appunto la Pellegrini Card, che è un buono pasto elettronico, funziona sul 90% della rete dei POS bancari. Allora, Keller, una buona notizia legata solo però ai buoni pasto elettronici, cos'è, un modo per incentivare anche le aziende a passare al digitale? Sì, questo sicuramente è stata una buona misura, perché va a favore del digitale. Oggi si sta parlando di un sistema, quello dei buoni pasto, che secondo l'Università di Tor Vergata e Open Economics pesa lo 0,72% del PIL italiano. Quindi con questa misura, anche se oggi impatta solo tra il 15 e il 20% di quei 2 milioni e 300 mila lavoratori di cui parlava, diciamo che si dà una spinta forte alla digitalizzazione del sistema Italia. Qualche cifra riguardo i primi interessi proprio per questa nuova misura vengono dal fatto che solo noi, per quanto ci riguarda, abbiamo una crescita veramente vertiginosa dell'interesse delle aziende in questo supporto digitale, quindi molte aziende si pongono la domanda del passaggio dal cartaceo al digitale. Parliamo di una crescita dell'oltre l'85% rispetto alla crescita dell'anno scorso di passaggio dal cartaceo al digitale. Parliamo anche di una rete di esercenti che, sempre più confrontata al digitale, è dotata di terminali di pagamento, con un effetto benefico su un servizio che è nato 40 anni fa sul cartaceo, oggi si sta convertendo alle nuove tecnologie, per non parlare poi di un futuro che ci aspetta con gli smartphone e con i pagamenti via mobile, sostanzialmente. Allora, dottor Scaramuzza, anche per lei un commento, nel senso che a noi sembra che sia un modo per appunto incentivare il passaggio ai buoni pasto elettronici, prendiamo con favore il fatto che comunque circa 400.000 lavoratori avranno un aumento di 400 euro l'anno. Tra l'altro, in generale, se moltiplichiamo un buono pasto da 7 euro per 220 giorni lavorativi in media, stiamo parlando di un apporto di circa 1.500 euro l'anno, praticamente uno stipendio in più grazie ai buoni pasto. Scaramuzza. Questo è una cosa molto positiva, d'altra parte esistono anche altri studi come per esempio quello del professor Baffè dell'Università Bocconi, che è presentato alla Camera dei Deputati a fine del 2014, sosteneva che un euro defiscalizzato in più nel buono pasto produceva uno 0,1% in più di aumento del PIL, quindi qualcosa di importante, anche perché, lo voglio sottolineare, il buono pasto stimola dei consumi virtuosi, consumi interni non può essere risparmiato, quindi il consumo nazionale ne beneficia, e virtuosi perché stiamo parlando della pausa pranzo, di un momento di convivialità, di un momento in cui insomma è opportuno che i nostri lavoratori passino del tempo favorevolmente. Quindi questa è la prima cosa da dire. Per quanto riguarda l'elettronico, anche lì bisogna dire che è da tanti anni che esistono sistemi di buoni pasto elettronico sul mercato, forse anche 20, che purtroppo non sono mai decollati, e questo credo che sia dovuto al fatto che tutti gli emettitori fino a oggi hanno avuto ognuno il suo sistema, ognuno il suo POS, al punto che, ripeto, fino a oggi, fino a quando non è arrivato questo incremento del tetto defiscalizzato, il mercato era molto statico. Ora i clienti lo chiedono perché, oltre a essere una qualcosa che snellisce molto il processo di gestione per le aziende, dà questo ulteriore beneficio. E soluzioni in quel senso direi che non se ne sono viste, anche se posso dire che la Pellegrini oggi invece ha lavorato proprio in quella direzione, perché con una soluzione apparentemente molto semplice, utilizzando lo standard bancario delle carte di credito, è riuscita a fare funzionare il suo buono pasto elettronico sui POS che ci sono già, senza bisogno di fare nessun tipo di intervento sul POS, ma semplicemente mettendo una carta che funziona esattamente come una carta di credito. Grazie allora sia Andrea Keller, amministratore delegato di Edenred Italia, Davide Scaramuzza, direttore della divisione buoni pasto del gruppo Pellegrini, meteo, pubblicità, poi la borsa che ha appena chiuso confermando rialzo più 2,21%, 349 come sempre per i vostri messaggi di 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal padiglione di Cibusa Italia qui all'Expo di Milano. Lo diciamo ogni volta per fare capire dove siamo, perché se lo chiedete, tra il padiglione Telecom, la Mauritania, la Palestina, il parco delle biodiversità, in questo clima diciamo assolutamente fresco e primaverile. Allora andiamo avanti con quello che riguarda la giornata di borsa, poi avremo ospite anche un operatore del mercato dei capitali per capire come si stanno muovendo e riposizionando diciamo, le banche, banche d'affari non solo, e poi il collegamento con Berlino, dove appunto vi è stato, abbiamo ascoltato alcuni passaggi presi quasi in tempo reale, vi è stata anche la conferenza stampa di Angela Merkel e Matteo Renzi. In un scenario, lo dico perché continuano giustamente anche a scrivere gli ascoltatori, di assoluta confusione. Basta prendere le dichiarazioni di oggi di Angela Merkel da una parte e di François Hollande dall'altra per non capirci più nulla, per cui adesso vi arriviamo comunque. Allora, dunque, per quello che riguarda, qualcuno dice, lei parla di economia reale, si riferisce alla puntata di ieri sui produttori dell'agroalimentare. Sì, non esiste solo la Grecia, non esistono solo i mercati, non è che fermiamo il programma e lo trasformiamo in un programma monotematico. Già è una follia essere arrivati in 5 anni a questa situazione sulla Grecia, si figuri se trasformiamo un programma in un focus 20, Focus Economia Greca. Allora, la borsa intanto più 2,21% Milano, in linea totale con le altre borse europee oggi. Parigi più 2%, Francoforte più 2,15% e in questo momento l'America guadagna lo 0,66%. Tra i titoli in recupero parziale i bancari, ma il miglior titolo è CNH Industrial più 4,90%, poi sui bancari più 4,60% lo fa UbiBanca, il 3,40% è stato il rialzo di Unicredit, il 3,21% del Monte dei Paschi, il 3% quello della Popolare Emilia Romagna, il Banco Popolare più 2,80% come Intesa San Paolo, Unipolsai più 2,70% come le Generali, Pop Milano più 2,5%. Bene anche Mediaset più 4,13%, oggi dichiarazioni anche sui dopo i dati pubblicitari. Partiamo anche da qui con Flavia Carletti di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Flavia. Sì, buonasera a tutti. Mediaset, Pier Silvio Berlusconi oggi all'interno di un annuncio che ha visto anche il ritorno di Celentano con un cartone, adesso non voglio entrare in campi non miei, ma ha commentato i dati sulla raccolta pubblicitaria, sì, a giugno più 6%, prego Flavia. Sì, ha parlato appunto che ha confermato che il secondo trimestre comunque si chiuderà con un pareggio proprio grazie al dato di giugno e quindi migliore rispetto al primo, dove c'è, quando c'era stato un calo dell'1,6%. Poi proprio in occasione della presentazione palinsesti ha fatto un discorso più ampio parlando un po' delle prospettive, alle domande riguardanti un possibile accordo tra Sky e Premium, ha detto che comunque non ci sono accordi che portino a qualcosa in breve, non volendo commentare di più, dicendo però che comunque il gruppo va avanti con altri tipi di intesa, parlando soprattutto di possibili accordi con Vivendi, che è l'azionista ormai di maggioranza relativa di Telecom Italia, per dei progetti sui contenuti. E poi ha parlato anche dell'offerta per Radio 101, R101, la radio controllata da Mondadori, che passerà come pacchetto di maggioranza a Mediaset, perché secondo lui comunque per avere una proposta competitiva sul mercato, cioè ha fatto una proposta competitiva sul mercato, il gruppo quindi ha fugato alcuni dubbi sul fatto che erano uno scambio tra società amiche, però questo progetto rientra nella strategia di non arretrare nella raccolta pubblicitaria dei media radiofonici. Secondo gli analisti, infatti, comunque avere una radio sola non conviene, mentre invece inserirla magari in un contesto più ampio invece può essere conveniente, come farebbe in questo caso Mediaset. Sì, vedremo, a noi chiaramente interessa molto quello, anche il ragionamento fatto da Pier Silvio Berlusconi sulla necessità di quanti mezzi radiofonici hai. Faccio notare che personalmente Radio 24 ha avuto un segno più pazzesco anche nella raccolta pubblicitaria di maggio, se ho ben visto, unico segno più nella raccolta pubblicitaria, però adesso non voglio dire inesattezze perché noi guardiamo i principali network. Chiuso questo spottone per la radio, però quando ci vuole ci vuole, visto che parlavamo della raccolta pubblicitaria di Mediaset. Andiamo avanti con gli altri titoli. UBI è la migliore, ma ci sono anche dei motivi interni. Sì, esattamente, UBI è stata la migliore tra i bancari che comunque, come dicevi tu, sono andati tutti bene, e UBI è la banca popolare che per prima ha avviato questa riforma della governance in vista di un passaggio a NSPA, e proprio in virtù di questo processo ha anche varato quelle che sono le modifiche per la governance della rete, perché UBI Banca è l'unico grande gruppo bancario federale rimasto in Italia e quindi ha cambiato anche seguendo le indicazioni della vigilanza della Banca d'Italia quello che è il governo societario di tutte queste banche che controlla e che fanno parte del suo gruppo. E quindi alla luce anche di quello che è stato detto ieri, che ci sarebbero gruppi esterni all'Italia che guardano magari a una grande popolare o comunque al settore delle popolari per possibile integrazione, in qualche modo oggi UBI è quella che ha beneficiato di più degli acquisti. Ne ha beneficiato UBI, il rimbalzo comunque è stato generalizzato per tutti i titoli bancari come ricordavamo. Molto bene oggi però in borsa anche CNH, che è il miglior titolo tra quelli e maggiore capitalizzazione, appunto più 4,90%. Sì, oggi il titolo secondo gli analisti ha beneficiato di notizie che arrivavano da oltreoceano, perché ieri il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di indicazioni sia sul raccolto in corso che sugli stock, prevedendo un aumento del possibile aumento dei prezzi delle commodity agricole, e questa cosa nel corso della notte italiana ha fatto salire tutte le azioni di concorrenti o di società comunque attive nello stesso settore di CNH Industrial, e quindi secondo gli analisti CNH ha sfruttato questo flusso positivo di notizie d'oltreoceano e gli acquisti sul comparto da parte degli investitori americani, beneficiando lei oggi a Piazza Affari. Allora, bene, anche altri titoli, andava particolarmente bene Telecom, poi alla fine ha chiuso con un più 2,55%. Su Telecom non si è mai fermata, ma continua la speculazione sul futuro della società. Esattamente, Telecom è arrivata anche a salire più del 4%, sì. Oggi ha avuto appunto solo questo ritracciamento sul finale, comunque chiudendo a più 2,5%, e secondo un po' di analisti e operatori aumenta l'appeal speculativo sul titolo, dopo le cessioni dei soci di Telco, dopo lo scioglimento della società che lo controllava, questo fatto che comunque viene percepita ultimamente sempre di più come una vera public company, la potrebbe rendere più appetibile in un possibile consolidamento del settore a livello europeo, che ormai viene dato quasi per certo da tutti, e in più potrebbe beneficiare quindi sia di queste indicazioni dall'estero, ma anche sia del possibile consolidamento italiano, oltre alla ripresa dell'economia italiana. Alcuni anni legavano il consolidamento italiano, il fatto che comunque l'economia italiana sta un po' riprendendo e Telecom, grazie alla sua posizione, potrebbe beneficiarne. In più, tutti questi movimenti azionari con le vendite dei soci che si sono staccati da Telco, appunto continua questo appeal, secondo loro, anzi è crescente proprio in questa fase l'appeal. Allora, adesso ci sono informazioni sul traffico, poi vorrei commentare con te anche il Monte dei Paschi, nel giorno in cui il Ministero dell'Economia e Finanza è entrato in possesso del 4% dei capitali, i migliori e i peggiori. E poi, a mio avviso, particolarmente importanti e anche belli da sentire, proprio per non parlare sempre solo di questa brutta figura che tutta l'Europa sta facendo sulla Grecia, e compresa la Grecia sta facendo una brutta figura, appunto l'intervento di Jackie Craft sui modelli che hanno permesso alle piccole e medie imprese di trasformarsi in gazzelle, cioè di aziende con elevati tassi di crescita, dopo il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora, Flavia Carletti, Monte dei Paschi di Siena. Sì, appunto, il Monte dei Paschi è chiuso con un più 3,21% come una delle migliori performance tra i bancari, e oggi proprio c'è stata l'ingresso ufficiale dello Stato attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel capitale del gruppo con il 4%, e questo ingresso deriva dalla conversione in titoli di 240 milioni di euro dell'interesse maturato per il 2014 sui Monti Bond che erano stati emessi dall'Istituto Senese. Certo. E sottoscritti dal Ministero, e in più su questi titoli c'è un impegno da parte del MEF a non vendere fino ad almeno circa 3 mesi da domani, quindi comunque sono delle azioni bloccate che per 3 mesi non possono essere vendute, e questo dovrebbe dare un po' di stabilità al titolo. Migliori e peggiori, primi sui motori più 9,14, Notorious Pictures più 8,96, Neurosoft più 8,60, Safebag più 8,20, fronte opposto, scusatemi, Vurrei Communication meno 5,70, Industria e Innovazione meno 5,30, Iniziative Bresciane meno 4,55%. Grazie a Flavia Carletti. Come annunciavo e anticipavo, nel ciclo di incontri che stiamo seguendo anche come Radio 24, organizzato da Fondazione Edison in occasione di Expo 2015, ieri a Palazzo Edison è stata la volta dell'economista Jackie Craft del Centre National de Recherche Scientifique, Lex Magistralis, come trasformare le piccole e medie imprese in aziende con elevati tassi di crescita. Sentiamo questo primo passaggio. Growth is not a random process, it is a sequence of different. La crescita non è un processo casuale, è una sequenza di diverse strategie che vengono seguite da alcune imprese, non da tutte. La crescita delle imprese soddisfa tutta una serie di interessi politici, perché porta con sé anche più competitività e più occupazione. E in un periodo in cui la disoccupazione aumenta, questo diventa un elemento fondamentale per individuare le imprese che crescono ad un tasso tasso di crescita fenomenale. Noi economisti possiamo affermare che esiste una regola generale. Sorprendentemente, non tutte le aziende crescono, anzi, la maggior parte delle imprese non prevede crescita. Le cose che leggiamo nei quotidiani non corrispondono sempre a ciò che noi osserviamo nei dati. I giornali, solitamente, danno notizia delle eccezioni, cioè quelle che noi chiamiamo aziende gazzelle, quelle imprese che hanno un alto tasso di crescita. Queste però rappresentano solo una piccola parte di tutto l'insieme delle imprese e hanno un comportamento di crescita particolare, importante da analizzare. Le aziende gazzelle sono interessanti perché contribuiscono alla creazione di nuovi posti di lavoro in maniera sproporzionata, ma in senso positivo. Ci sono diversi studi che stanno analizzando il fenomeno. Per esempio, negli Stati Uniti, il 2% di tutte le aziende contribuisce al 35% dei nuovi posti di lavoro creati. Nel Regno Unito, il 6% di tutte le aziende è responsabile per il 54% della crescita dell'occupazione, mentre un ultimo esempio è l'Austria, in cui il 30% di nuovi posti di lavoro creati è dovuta solo al 3,5% delle aziende. È un fenomeno davvero impressionante, ma solo alcune aziende creano occupazione. This is a very striking phenomenon. Only some firms are really creating employment. Così appunto l'economista Jackie Craft. Vedo alcuni messaggi che riguardano l'Expo. Allora, dell'Expo Radio 24 sta parlando ogni mattina nel GR delle 7 con il nostro viaggio dentro l'Expo per fare un bilancio dei primi due mesi e anche delle cifre che sono a disposizione. Radio 24 sarà di nuovo all'Expo a settembre, sempre a Cibus Italia. Vi dico solo che oggi, a margine di un convegno, il numero uno, il commissario straordinario dell'Expo, quindi mi riferisco a Giuseppe Sala, ha citato la cifra di 6 milioni di visitatori come cifra già superata nei primi due mesi della manifestazione. Abbiamo nel mese di maggio visitatori, non i biglietti, biglietti prenotati, ma i visitatori effettivi erano già 2.700.000 e con giugno si sono superati i 6 milioni di visitatori. Adesso GR24, poi l'ampia pagina greca, sia appunto sul fronte di cosa fare con gli investimenti, come si stanno muovendo le banche, sia sul fronte delle trattative di carattere politico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Debosciati d'Italia, unitevi! Sono Alessandro Milan e lo so che voi non ne potete più. Basta tasse, basta tasse, basta tasse. Lo so che avreste la ricetta giusta per i politici. La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili. E allora eccoci, a 24 mattino siamo i primi a commentare le notizie del giorno, leggiamo i giornali, discutiamo, se necessario ci arrabbiamo, ma non abbandoniamo mai il buon umore. Insomma, la colazione migliore si fa con noi. Il caffè volentieri a tutti quanti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 9 su Radio 24. Che te pozzino via fuoco, ciao Milan. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Focus Economia. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. 8:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal Cibus Italia, il padiglione del Cibus dell'industria alimentare italiana all'Expo di Milano. Allora, l'ampia pagina greca ormai sta diventando, ahimè, un appuntamento fisso a quest'ora. Dopo l'incontro e la conferenza stampa tra Angela Merkel e Matteo Renzi, abbiamo ascoltato prima alcuni dei passaggi presi proprio praticamente in diretta del nostro Presidente del Consiglio. Prima di tutto la posizione però, dicevo, del mondo bancario, perché su questo i mercati li abbiamo commentati minuto in minuto e sono definibili attendisti e poco, cioè dopo il tonfo di lunedì, il leggerissimo recupero di ieri, poi fallito, e oggi un recupero un po' più significativo, il 2%. Però capire come si muovono le banche di investimento significa non solo capire come si muovono gli operatori giorno per giorno, minuto per minuto, ma le strategie di pianificazione. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Giampaolo Bazzani, che è amministratore delegato di Saxo Bank, che è una banca di investimento danese, gestisce asset per circa 2 miliardi di euro. Buonasera, dottor Bazzani. Buonasera a lei. Allora, l'elezione dalla Grecia, nel senso, voi intanto in questo momento che cosa state facendo e che cosa state consigliando ai vostri clienti di cui amministrate i risparmi? Noi consigliamo ai nostri clienti di stare a guardare, perché ormai da parecchio tempo non sono più i numeri a guidare la situazione, ma è meramente la politica. La Grecia è fallita ormai da qualche mese e questo ce lo dicono gli stessi greci che hanno portato via i loro risparmi, i depositi sono passati da circa 240 miliardi alla metà, quindi i soldi sono già scappati e sono finiti nelle altre banche europee e in Svizzera. Adesso è la politica, gli annunci, il referendum a guidare e quindi una situazione di estrema emotività, come lei riassumeva bene, grandi perdite, tentativi di recupero, oggi un ribalzo significativo delle borse europee. Ma è difficile dare consigli e suggerimenti, l'euro-dollaro non si muove, i tassi sembrano proprio alla finestra a guardare i futuri sviluppi, quindi una situazione poco guidata da numeri e fondamentali e molto purtroppo dalla politica. Sì, da questo punto di vista è chiaro che a me interessa capire non quello che state facendo voi in Grecia, ma se temete, tanto la domanda è ovvia, nel caso il referendum dovesse dire no a una forma di accordo, ripeto, non abbiamo ancora capito quale il sì o il no, su che cosa verrà espresso, visto che quella proposta è decaduta e manca ancora una terza trattativa. La Germania ha fatto sapere anche oggi che non inizierà nessuna trattativa prima del referendum. Tsipras da un lato dice non vogliamo uscire dall'Europa, ma dall'altro dice votate no al referendum. O meglio, Tsipras ha detto la Grecia resta al tavolo negoziale e invita però a votare no al referendum, ma aggiunge non significherebbe un no all'euro, ma solo un tornare all'Europa dei valori. Insomma, una posizione un po' funambolica quella di Tsipras in questo momento. Però voi temete l'effetto contagio? Nel caso il no dovessero vincere, quindi venisse confermata una linea, un rifiuto da parte dell'elettorato greco alla proposta o qualunque proposta? Dunque, temiamo un contagio emotivo, cioè quello di estrema volatilità nei mercati. Abbiamo alzato i margini per negoziare i derivati, proprio per proteggere i clienti e gli operatori. Questo per dare un segnale concreto, tra oggi e fino a lunedì mattina quando siamo disposti a rivederli, i margini sono stati alzati. Questo perché ci aspettiamo una volatilità potenzialmente molto molto alta. Sono d'accordo con lei, la posizione di Tsipras in questo momento assume toni di pura retorica, per non dire di peggio, nel senso voto no, ma poi non voglio andare via dal tavolo, voglio comunque i soldi dei creditori e voglio soprattutto rimanere nell'euro. Non è possibile, il voto no aprirà scenari completamente diversi e accelererà la possibile, non tanto l'uscita dall'euro, ma un default anche formalizzato per la Grecia. Il rischio contagio è non tanto a livello macroeconomico, se pensa che l'Italia esporta meno dell'1% in Grecia, male non può fare, potrà minare però la il costo del debito pubblico dei paesi come l'Italia, che sono molto indebitati. Se il decennale, cioè, lei, si muove... lei teme che aumenti lo spread, quindi i rendimenti sui BTP a 10 anni non solo? Sì, per due motivi. Uno, per questo effetto di aumento di volatilità, e uno perché la speculazione non vede l'ora naturalmente di cogliere le opportunità. E quella un'opportunità potrebbe essere quella di attaccare un paese come l'Italia. Quindi se la volatilità aumenta e quantitative easing e tutte le manovre della BCE non sono sufficienti per proteggere il titolo italiano, ecco, il rischio contagio sarebbe quello lì. Se il decennale sale del 2%, facciamo un caso estremo, ci costa una decina di miliardi in più. Se non ricordo male, la sua trasmissione parlava della manovra di dove troveremo 20 miliardi, ecco, sarebbe il caso di trovarne 30, il che complicherebbe le cose. Sì, nel giorno in cui veniamo a sapere che appunto abbiamo risparmiato già 2 miliardi e 400 milioni di minori interessi sul debito, dato di oggi, per cui lei dice vi sarebbe un rischio per quello che riguarda l'Italia, un rischio spread, un rischio costo dei tassi di interesse. Bazzani, non è un po' poco, nel senso, io non voglio autogufarmi, però a mio avviso se il voto fosse no e a questo punto la Grecia di fatto uscisse dalle trattative, poi vediamo, la terra incognita, per usare i termini di Mario Draghi, sarebbe tale che forse verrebbe rimessa in discussione la stessa, diciamo, capacità di tenuta dell'Europa, oppure è eccessivo? No, non è eccessivo. Dal punto di vista politico, anche se io non sono un analista in questo settore, l'Europa ha già fallito. Probabilmente quello che ci ha insegnato la Grecia è che non esiste un'unione politica, l'incapacità di risolvere i problemi. Ce ne eravamo già accorti anche con l'immigrazione. Della Grecia parliamo da 5 anni. Sono speso una quantità enorme di denaro spostando il debito dalle banche tedesche e francesi a organismi sovranazionali, inclusi gli stati. Quindi ogni famiglia ha un credito di circa 3.000 euro con la Grecia. E sì, voglio dire, adesso lei fa l'amministratore delegato di una banca, però non è stata una bella cosa. È vero che le banche in parte ci hanno rimesso con l'haircut, con il taglio dei debiti che la Grecia aveva nei loro confronti, però vedere che tutto questo processo ha portato la Grecia ad avere lo stesso debito di 5 anni fa, a non sapere come ripagarlo, anche perché una cosa va detta a ragione dei greci, che se tu chiedi che tutto l'avanzo primario, cioè quello che resta in cassa allo Stato greco prima di pagare gli interessi sul debito, vada a pagare i creditori, è chiaro che la Grecia non si risolverà mai con politiche per le classi più basse, per far ripartire la domanda interna greca. Ma dicevo, pur lei rappresentando una banca, non è stata una bella cosa vedere che semplicemente il risultato di questi ultimi 5 anni è che il debito greco adesso è nei confronti dei cittadini europei e non più nei confronti delle banche. Cioè, voglio dire, le banche tedesche, francesi, italiane, penso anche danesi, che prestarono i soldi alla Grecia fino al 2009, lo sapevano benissimo cos'era la Grecia, o no? Mi verrebbe da rispondere che amministrando una banca danese sono fuori dal circo, è vero. Infatti non partecipiamo all'euro e non finanziamo la BCE, però da italiano vuol dire che le banche italiane che erano esposte per 10 miliardi oggi lo sono per circa 800 milioni, quindi in questi anni si è salvata la stabilità di un sistema creditizio che era sovraesposto nei confronti di un paese rischioso. La Grecia è anche il paese più corrotto d'Europa a livello di indice di corruzione. Dico, tutto vero, però i greci erano greci anche prima, nel senso, non è che si possono prestare i soldi, vendere i sommergibili, fare le operazioni come, e poi scoprire che improvvisamente questi sono greci. Questa è l'unica critica di fondo che io ho. Cioè, sapevi benissimo, anche quando hai prestato 80 miliardi complessivamente tra banche tedesche, francesi, italiane e quant'altro, che erano soldi a rischio, non so come dire, non è che scopri improvvisamente che la Grecia esporta praticamente nulla, che ha un'economia poco industriale, che ha dei privilegi sui pensionati in alcuni casi, sugli armatori in altri, sull'evasione fiscale in altri ancora, sulle isole, cioè, si sapevano anche prima queste cose, o no? Sono d'accordo con lei, nel senso che la politica ha fallito da molto tempo, perché quasi tutte le iniziative, forse tranne quelle della BCE, sono state iniziative politiche. Dall'altra parte della Grecia c'è stato un volersi farsi male, soprattutto con l'elezione di questo governo populista, che chiede il taglio del debito al Fondo Monetario Internazionale, che vivendo di principio mutualistico il taglio non glielo concederà mai. Cercando di capire che cosa bisognerà fare adesso e lasciando stare la crisi umanitaria che probabilmente la Grecia sta vivendo e che vivrà, e questo è un fattore assolutamente importante, il futuro può essere solo un consolidamento del debito. Se immaginiamo che la Grecia possa spendere l'1%, il 2%, che è già una cifra enorme, del PIL per ripianare il debito, abbiamo davanti 100 anni di restituzione del debito, che equivale a un consolidamento o addirittura a una cancellazione del debito. E quindi lei dice anche uscisse dall'euro, adottasse la dracma, uscisse dalle trattative, tanto questo debito con quei tassi di crescita lo ripaghi in 100 anni, nel senso, mettiamocela via, o ci infiliamo in un ulteriore vicolo cieco. Vedo molti messaggi che chiedono, ma allora cosa fare con i risparmi? Adesso non è che il dottor Bazzani faccia il gestore, il consulente finanziario, però in effetti se individuiamo nell'area euro un rischio o nei rendimenti dei titoli di Stato italiani, in questo caso dei paesi più a rischio, un elemento diciamo non perseguibile, dove si spostano le asset allocation? Allora, per chi vuole proprio rimanere sull'obbligazionario, sicuramente è facile dire il tratto più corto della curva, quindi scadenze molto brevi. Piuttosto guarderei all'obbligazionario nordamericano e in particolare titoli legati all'inflazione. Settembre sembra un buon periodo per alzare i tassi americani, dopo finalmente, visto che anche di questo ne parliamo da molto tempo. Sull'azionario sono personalmente molto favorevole, se non ci fosse la Grecia avremmo un party nelle borse europee, saremmo pronti a festeggiare, quindi alla finestra pronti a cogliere delle opportunità. Le valute, che ormai sono un asset class a pieno titolo e sono anche un termometro dei poteri tra i paesi, e io il dollaro lo vedo ancora estremamente interessante in questa fase di consolidamento, di prese di beneficio. Mi aspetto che nella seconda metà dell'anno il dollaro riprenda a correre, in particolare nei confronti dell'euro, che è pur sempre l'espressione di un agglomerato di stati di cui non stiamo parlando bene da una decina di minuti a questa parte, quindi la parità tra euro e dollaro non è così lontana. Perfetto, ho capito. Le dice, poi c'è anche la manovra della Fed, appunto, che dovrebbe rafforzare ulteriormente il dollaro. Grazie a Giampaolo Bazzani, amministratore delegato di Saxo Bank Italia. Il traffico e poi gli ultimi aggiornamenti tra Berlino, Bruxelles e Atene. Focus Economia. Allora, vedo molti messaggi che dicono, beh, anche l'Italia con questi tassi di crescita quanto ci rimetterebbe a ripagare il suo debito? Avete ragione, ecco perché sull'Italia l'attenzione è molto forte sul deficit, cioè su non superare la soglia del 3% per non accumulare ulteriore debito. Ma il ragionamento può valere anche per l'Italia, certo. Alcuni scrivono, beh, la Danimarca che cosa esporta? Ho capito che esporterà poco anche la Danimarca, ma ha i conti in ordine, a parte che non è neanche nell'euro, ma ha i conti in ordine, non ha truccato i conti. Insomma, il problema greco si pone perché questi hanno truccato i conti, hanno raccontato cose false e hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità. Ricorda in parte l'Italia, certo che ricorda, noi i conti non li abbiamo mai truccati. Però ricorda, il punto non è continuare a ragionare sul passato col paraocchi, è capire come si esce da questo cavolo di cul-de-sac. E non rifaccio la battuta che per uscire da un cul-de-sac ci vuole un sac de. Ok, allora, tutta la storia l'abbiamo raccontata, ma quando, in una giornata come oggi, dopo la lettera di ieri sera inviata da Tsipras, in cui sostanzialmente apre molto alle richieste europee, leggiamo dichiarazione di Angela Merkel, che non è l'ultima degli sprovveduti, che dice no, noi non, gli aiuti sono sospesi per il negoziato, ne riparliamo dopo il referendum greco, dopo l'esito del referendum greco. Schäuble, il suo ministro delle finanze, che aggiunge parlare prima del referendum non ha senso, e devo dire che una volta tanto sono d'accordo con Angela Merkel e Wolfgang Schäuble, chi se ne frega direte voi, ma hanno voluto il referendum, l'hanno annunciato venerdì sera, adesso facciano il referendum e poi si vede. come si fa a parlare di un negoziato se non sappiamo ancora se vinceranno i no alle proposte arrivate, le richieste arrivate dall'Europa, dal Fondo Monetario e dalla BCE. Poi però c'è François Hollande che dice no, forse possiamo fare un accordo anche prima del referendum, e a quel punto io non capisco più su che cosa voterebbero i greci. Chiedo aiuto a Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Alessandro, buonasera. Sì, da Francoforte, scusami, da Francoforte, scusami, a forza di capitali. Prego. Anch'io mi confondo. Allora Alessandro, tu hai capito qualcosa di più? Ho capito solo che la posizione tedesca resta che non si negozierà più prima del referendum, e quindi credo che questa sarà la posizione che alla fine prevarrà. In sostanza le osservazioni che si fanno a Berlino sono due. Non si può pensare adesso di ripartire a venerdì scorso come se non fosse successo niente. Venerdì scorso i greci hanno lasciato il tavolo del negoziato, indetto un referendum, detto che avrebbero votato no al referendum. Adesso non è sufficiente mandare una lettera dicendo vabbè, abbiamo scherzato, in fondo possiamo accettare il 90% di quello che ci avevate chiesto, anche perché nel frattempo il cosiddetto secondo salvataggio è scaduto ieri, e quindi a questo punto si tratta di negoziare una cosa ex novo. L'altra cosa che appare ormai evidentissima è che a Berlino, ma è sbagliato secondo me fare di questa vicenda una questione bilaterale fra Berlino e Atene, perché tutti gli altri sono molto più vicini alle posizioni tedesche che a quelle greche, a Berlino e altrove non ci si fida più di questo interlocutore, cioè questo interlocutore ormai è squalificato dalla linea che ha tenuto in questi 5 mesi. L'intento o comunque l'aspirazione, magari non dichiarata, dei tedeschi e probabilmente di altri è che il referendum provochi un cambio di regime, diciamo un cambio di governo ad Atene, ma se anche così non fosse, insomma, si ripasserà. Guarda, su basi diverse a partire dal lunedì. Ti interrompo perché proprio alla luce di quello che stavi dicendo è appena uscita un'agenzia che cita Jean-Claude Juncker, quindi Presidente della Commissione Europea, ha detto stop a ogni tipo di contatti e di trattative con Atene fino al referendum, quindi proprio casca a fagiolo, era esattamente quello che tu stavi ricordando. Devo dire che più modestamente anche noi, quando abbiamo visto le dichiarazioni di Angela Merkel, abbiamo capito che nel momento in cui il paese che pesa di più nell'area euro dice che non si siederà al tavolo delle trattative finché non c'è il referendum, che cosa volete che capiti? Cioè, non capisco poi questa manina di François Hollande che dice si può arrivare forse a un accordo prima del referendum e quant'altro. Detto questo, mi sembra che se anche Juncker mette la parola fine alle trattative prima del referendum, si va al referendum, si andrà al referendum e basta. Su questo Alessandro, abbiamo già ascoltato le dichiarazioni anche di Matteo Renzi dopo la conferenza stampa con Angela Merkel. È un po', cioè, quindi secondo te la lettura che viene data alla lettera di Tsipras è un tentativo di confondere ulteriormente le acque? Ma insomma, io credo che Tsipras abbia annunciato questo referendum sperando che gli altri fossero i primi a cedere, insomma, questo braccio di ferro, come viene chiamato il gioco della gallina, oppure insomma questo finto scontro in cui due auto viaggiano a tutta velocità l'una contro l'altra e alla fine una delle due devia la traiettoria per evitare il frontale. Tsipras era convinto che gli altri avrebbero deviato e invece gli altri sono rimasti fermi. A questo punto è stato lui a deviare, sì. Prima con la lettera e poi queste incertezze, il referendum si fa o non si fa, insomma, che poi sono state chiarite oggi perché è stato ribadito che il referendum si farà. Sì, che però, ha detto che bisogna votare no, ma questo non vuol dire rinunciare alle trattative. Visto che il suo ministro delle finanze Varoufakis è un grande esperto della teoria dei giochi, la teoria dei giochi analizza i comportamenti di due giocatori. Ci può essere la win-win, se non la ricordo male, vincono tutti e due, vince uno, perde l'altro, vince quell'altro, perde uno, oppure lose-lose. E qua mi sembra che stiamo andando verso la versione lose-lose, cioè perdono tutti e due. Comunque, grazie anche a Alessandro Melli, chiarissimo il tuo ragionamento, devo dire, ci conforta, perché non avevamo visto, o meglio, avevamo visto giusto nonostante tutte le varie ride di dichiarazioni, dai, si fa sto referendum e seriamente, questa volta diciamo ha ragione la Germania, poi ci si siede a un tavolo in base alla risposta che daranno i greci al loro referendum. Grazie anche a Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo anche domani in diretta dall'Expo, dal padiglione Cibus e Italia, qui alla Fiera di Milano. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.